America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. E beh, cominciamo subito con Wall Street, perché se la giornata è stata drammatica ieri in Europa, soprattutto in Italia, soprattutto in borsa, beh, non è che sia stata molto più soddisfacente o rassicurante qui a New York. Non abbiamo naturalmente toccato i livelli di perdita che abbiamo visto in borsa italiana, però l'indice Dow Jones è caduto di 186 punti, l'1,1%, siamo a quota 16.427, e pensare che appena 2 o 3 giorni fa sembrava che l'indice fosse proiettato su quota 17.000, ma questa soglia psicologica di quota 17.000, beh, sembra avere una resistenza incredibile, non la si riesce a superare. Il flirt va avanti da molti mesi, ogni volta che ci si avvicina, boom, subito si ritorna indietro. Gli altri indici non sono andati bene, S&P 500 ha perso l'1,3%, il Nasdaq l'1,4%, ma c'è un indice di cui non vi parlo mai che volevo segnalarvi, ed è il Russell 2000 per i small cap stock, cioè gli stock che valgono magari pochi centesimi. Ha perso l'1,8% e quindi a quota 1083. Questo potrebbe dire, vabbè, e allora? Beh, e allora la cosa importante qual è? Che anche se la borsa è in diminuzione, si sta ritirando, non siamo certamente ancora sulla borsa americana in odore di correzione, ma il Russell 2000 lo è, perché rispetto ai massimi ha già perso oltre il 10%. Vi ricordo che una correzione nel gergo di Wall Street avviene quando l'indice rispetto ai massimi perde, diciamo, tra il 10 e il 20%, in genere poi trova un punto di sostentamento e riparte. È da tempo che ci si domanda se dopo la corsa che è durata molti anni e dopo i guadagni straordinari degli indici, non ci sia forse la necessità fisiologica di una correzione. Ancora non c'è stata, ma questo segnale del Russell 2000, secondo alcuni analisti, potrebbe essere un campanello di allarme. Dunque vi segnalo quali sono gli elementi che preoccupano gli investitori. Per esempio, Walmart ha avuto dei risultati trimestrali che non sono andati bene, sono andati al di sotto delle aspettative. E perché questo titolo, direte voi, deve preoccuparci? Perché Walmart rappresenta il polso dei consumatori americani. Walmart è la più grande catena di distribuzione, è presente su tutto il territorio nazionale, e dunque questa performance al di sotto delle aspettative dimostra che forse i consumatori americani continuano a essere prudenti, continuano a essere preoccupati, continuano a resistere le tentazioni a lasciarsi andare. Un altro segnale che ha creato tensione è che il mercato obbligazionario, soprattutto quello dello Stato americano, ha avuto una diminuzione dei rendimenti. Questo si è tradotto in che cosa? In un rafforzamento del dollaro. Amazing grace, how sweet the sound. Amazing grace, l'avete sentita in questa interpretazione. Volevo parlarvi più di questo in realtà oggi, di questo momento di commozione, ve l'ho accennato ieri, per il ricordo, un ricordo che dovrà restare per sempre e resterà sicuramente per sempre, delle vittime che sono perite in quell'attacco dell'11 settembre. Una delle cose su cui vorrei riflettere oggi, e che devo dire mi ha molto disturbato, è che ho ricevuto dei messaggi su Twitter di alcuni che dicono: ma no, ma queste sono le lacrime di coccodrillo, il governo americano sapeva benissimo quello che stava succedendo. Ecco, non credo che possa esserci insulto vergognoso peggiore di questo nei confronti di coloro che sono periti, nei confronti di questo attentato costruito da Osama Bin Laden. Io ve l'ho raccontato l'altro giorno, ero presente, non tornerò sui dettagli, ma le dinamiche erano chiarissime, le reazioni di tutti chiarissime. L'attacco è stato a sorpresa, ha colpito a tradimento l'America e il mondo, ci ha portato in un'epoca nuova. Ma il ricordo di ieri, il ricordo di chi era allora al fronte, cioè del sindaco Giuliani o del governatore Pataki, di altre persone, di coloro che erano nelle due torri e che sono riuscite a salvarsi. Mi ha colpito in particolare il ricordo di questa donna che ha donato al museo le sue scarpe e ha raccontato di come, in lacrime, poveretta, si è levata queste scarpe per poter correre meglio dal 60° piano e cercare la via della fuga. Lei ci è riuscita, è stata fra gli ultimi 20 che si sono salvati dalla Torre Sud prima che crollasse. Ecco, queste scarpe sono in una bacheca in questo museo di memorabilia che racconta le storie di chi si è salvato, di chi è perito, gli atti d'eroismo dei pompieri, dei poliziotti e soprattutto una storia personale di ciascuna delle vittime. C'è un computer, si schiaccia un nome e improvvisamente vengono fuori dei messaggi, vengono fuori dei ricordi. Devo dire, davvero molto molto commovente, e per tutti vi faccio ascoltare il messaggio del presidente Barack Obama. And then there came a voice, clear, calm, saying he had found the stairs. Obama ha ricordato in particolare un ragazzo che ha sacrificato la sua vita per salvare degli altri, per aiutarli a uscire. Un ragazzo di grandissimo altruismo, un ventenne. La madre poi ha parlato in lacrime, raccontando di questo suo figlio, e Obama ha detto, parlando all'America, parlando al mondo: nessun atto di terrorismo può confrontarsi con la forza del nostro paese, nulla potrà mai distruggerci, nulla potrà mai cambiare quello che siamo come americani. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, c'è una curiosità: a un certo punto ieri alla celebration per il museo dell'11 settembre doveva intervenire Chris Christie, celebrazioni, vi dicevo, con trombe, cori, pianti, davvero molto molto commovente, e prima dell'intervento di Chris Christie, governatore sotto tiro del New Jersey, Idina Menzel doveva cantare Bridge Over Troubled Water, la celeberrima canzone di Simon & Garfunkel. Non l'ha fatto, non si è capito perché. Beh, perché forse c'erano problemi di traffico che aveva avuto il governatore e qualcuno pensava che potesse essere di cattivo gusto. E dunque, proprio con questa canzone, il ponte sulle acque turbolente e la forza per superare queste acque turbolente, vi propongo, in onore dei caduti dell'11 settembre, Bridge Over Troubled Water di Simon & Garfunkel. Feeling small when tears are in your eyes, I will dry them off. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going. America 24.